Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dunque, mentre oggi si è svolto, come vi hanno raccontato i nostri GR, il secondo atto politico del Presidente del Consiglio, nel frattempo escono alcuni dati, alcune riflessioni a mio avviso molto interessanti. E cioè, da un lato c'è questa proposta avanzata ieri dalla Sonime, che è l'associazione che raggruppa le società di capitali, e per voce del suo presidente Luigi Abete ha detto: beh, pensiamo a una forma di tassazione, attenzione alla parola, non patrimoniale nel senso stretto, ma che possa aumentare in qualche modo l'IVA, ma, e soprattutto che possa anche avere una parte di investimento di tassazione del patrimonio. Ne parleremo con Luigi Abete stesso fra poco, e questo nel giorno in cui l'annuale rapporto di Merrill Lynch sulla ricchezza mondiale, sui miliardari, chiamiamoli così perché insomma si occupa di chi ha un patrimonio finanziario superiore al milione di euro, individua come un aumento della ricchezza, cioè di chi appunto appartiene al club di chi ha più di un milione di euro, impressionante, più 8% anche nel 2010, con un numero di appunto high net worth individuals, comunque di persone che hanno più di un milione di dollari a disposizione, che ha superato i livelli pre-crisi. Pensate che praticamente il numero di persone al mondo con più di un milione di dollari sono quasi 11 milioni e la loro ricchezza complessivamente vale 42.700 miliardi, perché questo, diciamo, è il club di chi ha più di un milione, non è detto che ne abbia uno solo, anzi. E tant'è che gli individui con un patrimonio finanziario di oltre 30 milioni di dollari sono cresciuti nel 2010 del 10% e la ricchezza loro è cresciuta dell'11,5%. Terremo assieme le due cose, non per un ragionamento demagogico, ma perché è chiaro che a livello mondiale è stata creata molta ricchezza anche nel 2010, che questa ricchezza forse non si è distribuita, anzi sicuramente non si è distribuita come dovrebbe, ma insomma tenere assieme il dato sulla ricchezza mondiale, che ripeto è tornata sia come numero di persone che come valori sopra i livelli del 2007, cioè dei livelli pre-crisi, con le necessità di reperire fondi per questo paese per abbassare le tasse per i ceti meno abbienti, la Confcommercio è contrarissima all'aumento dell'IVA, ci sono altre ipotesi allo studio, sarà il primo tema di questa puntata. Poi parleremo degli investimenti in infrastrutture, della concorrenza, dopo l'allarme, la critica lanciata ieri da Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust, nella sua ultima relazione come presidente dell'Antitrust, e come sempre i mercati finanziari. Meno 0,16% in questo momento Milano, poco mossa anche il resto d'Europa, più 0,08 Parigi, più 0,1 Francoforte, più 0,2 Londra, invariata l'America. Oggi un po' più calma la giornata, viva Dio, dopo quello che abbiamo passato le settimane scorse per via della Grecia, ma non solo. L'euro recupera quota 1,44,30, bene di nuovo l'automatica più 3,70, Enel più 1,5, Autogrill più 1,20, Intesa San Paolo più 0,60, Diasol in più 0,60 anch'essa come Ansaldo STS. Chi perde? Beh, di nuovo Fondiaria SAI, meno 3,90, Azimut meno 2,70, Mediaset meno 2% come Mediolanum, Monte dei Paschi anch'essa perde il 2%, A2A perde l'1,70, Mediobanca l'1,60, Banco Popolare meno 1,5 come Impregilo e Prismian. La Pop Milano perde un altro 1,20%, Buzzi Unicem l'1,26, Telecom l'1,24, Generali l'1,17%. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Le notizie in breve. dove li prendi tutti sti dati? Scrive un ascoltatore. Adesso non è, non abbiamo fonti nostre. È semplicemente, come ogni anno, la banca d'affari americana Merrill Lynch ha diffuso il World Wealth Report, ossia appunto il rapporto sulla ricchezza mondiale, su come viene distribuita e su quanti sono i milionari in dollari. Giustamente qualcuno chiede se la distribuzione geografica sia simile ai livelli pre-crisi. No, avete ragione, nel senso che chiaramente sono cresciuti più i milionari in India e in Cina. L'Italia è scesa, ha perso una posizione, resta l'Italia però tra i primi 10 al mondo quanto a milionari presenti, alla faccia dei 50.000 italiani che dichiarano ogni anno di guadagnare più di 200.000 dollari al mese, 200.000 euro all'anno, però noi restiamo tra i primi 10, ci ha superato l'Australia, abbiamo perso una posizione. Andiamo avanti con il resto invece delle notizie. Dicevamo oggi della Confcommercio, adesso ne parleremo, contraria all'ipotesi di un aumento dell'IVA. Calcola la Confcommercio che con un aumento dell'IVA calerebbero i consumi del 1%, l'inflazione aumenterebbe dell'1,5% e 1,6 miliardi di minor gettito, con 341 euro di consumi in meno a famiglia. Oro e petrolio stabili, 95 dollari al barile petrolio e 1550 dollari all'oncia. L'oro, il governo greco, il nuovo governo greco di Papandreou ha ottenuto la fiducia, questo è servito anche un po' sui mercati a mettere un po' di calma. 155 deputati del PASOK e 140, cioè Papandreou è riuscito ad avere sia il voto dei 155 deputati del PASOK e 143 no delle opposizioni. Quindi la maggioranza c'è, seppur non fortissima. Vertice tra i governi francesi e tedeschi, assieme alle banche, per il pacchetto di aiuti alla Grecia. E poi la Francia che interviene di nuovo sulla vicenda di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea. Ha detto infatti la Francia: non ci sono condizioni per il sostegno della Francia a Mario Draghi. Quindi non è vero che noi abbiamo detto, in realtà l'hanno detto, che sarebbe meglio che se ne andasse Benismaghi perché due italiani sono troppi. E, tra l'altro, il ministro Frattini su questo è intervenuto dicendo: ma la sollecitazione fatta dall'Italia a Benismaghi ad andarsene non è illegittima, tutt'altro. Boh. Insomma, annunciarlo in conferenza stampa come ha fatto Berlusconi la settimana scorsa, prima ancora che lui lo sapesse, perché era convocato a Palazzo Chigi, a me è sembrato il massimo. Vabbè, passiamo a Emma Marcegaglia, che sulla riforma dei contratti ha detto: non ci sono preclusioni, ci poniamo tutti gli stessi obiettivi, arrivare a un accordo interconfederale con tutte le sigle sindacali. Ascoltiamola al microfono del nostro Andrea Viali. Ci poniamo gli stessi obiettivi, cioè noi vorremmo arrivare a un nuovo accordo interconfederale con tutte le sigle sindacali. Secondo noi i temi all'ordine del giorno sono la rappresentanza e la rappresentatività a livello nazionale, e l'altro tema che a noi interessa è anche il tema però dell'esigibilità e della rappresentatività anche a livello aziendale, sul tema proprio della esigibilità dei contratti aziendali. La Commissione europea e anche il Consiglio europeo, nella valutazione del nostro piano nazionale delle riforme, ha evidenziato che ritiene l'accordo interforale del 2009 un buon accordo, un accordo che però va concretizzato, va portato avanti. Il tema delle deroghe, della maggiore centralità del contratto aziendale, sono temi riconosciuti ormai a livello europeo un po' ovunque come i temi fondamentali per arrivare a una maggiore produttività. Quindi noi non siamo innamorati delle cose che abbiamo firmato in passato, ovviamente non possiamo neanche, come dire, non ragionare sul fatto che sono stati fatti anche dei riconoscimenti molto positivi, diciamo, sul percorso che l'accordo del 2009 ha aperto. Comunque, noi andiamo al tavolo con molta apertura, con la volontà appunto di arrivare a questo accordo interconfederale su questo punto, esigibilità dei contratti a livello aziendale, capire come ragionare per casi, non sto certo parlando solo di Fiat, certamente anche Fiat, ma di altri casi di aziende che possono avere la necessità di adattare le regole di un contratto nazionale di cui noi riconosciamo la centralità, e nella proposta che noi presenteremo ci sarà questa centralità del contratto nazionale, ma sappiamo che ci sono dei casi in cui è necessario per alcune aziende adattare le regole del contratto nazionale appunto ai livelli aziendali. Così la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, oggi presentato anche il piano industriale delle Ferrovie dello Stato, già vi erano alcune anticipazioni nei nostri GR. Il numero uno, Mauro Moretti, ha stimato investimenti in 27 miliardi di euro nei prossimi 5 anni, 6 miliardi destinati a nuovi treni, tra altre cose, e poi l'aumento di capitale da 900 milioni di euro sul piano industriale, che non verranno dallo Stato, come ha spiegato lo stesso Mauro Moretti. I 900 milioni non vengono dallo Stato, sono tutte operazioni interne al gruppo. Anche i 900 milioni devono venire fuori dai mercati, dai servizi e dalle operazioni di asset allocation che dobbiamo fare, di valorizzazione. Ma anche questi di asset non strumentali all'esercizio ferroviario. Non vogliamo togliere neanche un centesimo alla parte strumentale. Il ministro Tremonti conosce il piano industriale, è stato presentato, approvato. Non a caso ha detto che vuole i soldi, non è che ce li dà. Vuole le cedole. E poi, come troverà i soldi il gruppo Ferrovie dello Stato? Beh, emetterà obbligazioni, quindi chiederà un prestito sul mercato tra i 3 e i 5 miliardi di euro ad inizio del 2012, un prestito che chiederà e che sarà destinato principalmente a finanziare gli investimenti infrastrutturali dell'alta velocità. A questo proposito, cioè sull'alta velocità, Moretti ha chiarito che entro il 2015 la tratta Roma-Milano, o Milano-Roma è uguale, verrà percorsa in 2 ore e 20 minuti contro le attuali 3 ore. Il primo tassello per ridurre il tempo sarà l'entrata in funzione del passante di Bologna, che è previsto per la seconda metà del 2012. Il secondo, nuovi treni a velocità 360 km all'ora commerciali. Noi col nuovo treno abbiamo immaginato il tilting del futuro, fino ad oggi fatto per 250 all'ora, da domani per 360. E quel treno, cioè, che sullo stesso binario fatto per 300 all'ora, solo lui può andare a 360, perché il binario pensa, per gli sforzi che sente, le sollecitazioni che sente, che quel treno lì stia andando ai 300 km all'ora. Con questo ulteriore passaggio pensiamo di poter tagliare nei non stop altri 10, dai 10 ai 15 minuti. Infine, il terzo passaggio fondamentale ci sarà con il sottopasso di Firenze, che potrà fare tagliare ancora dai 15 ai 20 minuti. La somma vi dà quello che arriverà, e cioè quelle 2 ore e 20, 2 ore e un quarto. Il binario pensante, non se ne abbia Moretti, non l'avevo ancora sentito. Comunque, almeno qualcosa di pensante in sto paese c'è. Pink Floyd, Money, qualcuno se la ricorda? Qua di soldi, di Skay stiamo parlando, perché come ogni anno Merrill Lynch, come vi anticipavo, va a fare la mappa dei milionari in dollari a livello mondiale. Come dicevo, sono cresciuti già l'anno scorso, cioè rispetto al 2009 avevano fatto un più 18,9%, però la crescita quest'anno è stata di quasi il 10%, ossia stiamo parlando di quasi 11 milioni di persone con una ricchezza finanziaria complessivamente pari a 42.700 miliardi di dollari. Beati loro. Poi ci sono quelli che hanno più di 30 milioni di dollari, e anche questi sono cresciuti del 10%, e la loro ricchezza come valore è cresciuta dell'11%. I paesi Stati Uniti, Giappone e Germania da soli fanno metà di tutti i milionari mondiali. da sola l'America quasi un terzo dei milionari al mondo, però l'area Asia-Pacifico ha superato per la prima volta nella sua storia l'Europa, e questo dovrebbe dire la lunga su chi lavora in Italia nel settore lusso, comunque in tutto ciò che gira attorno al lusso, perché ci sono più milionari in questo momento in Asia e Pacifico che nell'intera Europa. Per la precisione sono 3.300.000 nell'area Asia-Pacifico e 3.100.000 in Europa. Dottor Stefano Guglielmetto, responsabile investimenti per l'Italia di Merrill Lynch, buonasera. Buonasera a lei. Prima domanda, il milione è riferito a tutto, anche agli investimenti e alle proprietà immobiliari? Assolutamente sì, con l'esclusione però della prima casa, quindi della casa di No, perché c'è qualcuno che ha scritto, vabbè, ma un milione, mica ricco uno, vabbè, ci dica dove abita lei, così capiamo. Mi sembra invece che con i chiari di luna che vede il paese, un milione sia una bella cifra, a maggior ragione se, come lei ci ha chiarito adesso, la prima casa è esclusa, per cui parliamo di patrimoni e risparmi a seconda casa. Allora, il dato che più la sorpresa qual è? Il sorpasso Cina, India, Giappone, Asia sull'Europa? Quello è sicuramente un dato importante. Dire che è sorprendente, direi di no, perché è figlio di due elementi. Il primo è la crescita del prodotto interno lordo in quelle aree, che sappiamo tutti che ormai da tempo è decisamente superiore al tasso di crescita dell'Europa, e l'altro fattore importante è l'andamento dei mercati. Quindi non è sorprendente fino a un certo punto. In realtà quello che lascia intendere questo rapporto, che come suggeriva lei nell'introduzione, è che c'è un mercato molto interessante in quei paesi, e in termini numerici e in termini di ricchezza, che è per dimensione ormai paragonabile a quello europeo. L'ha anche superato, appunto, 3.300.000 in Asia Pacifico contro i 3.100.000 in Europa. E quindi, ripeto, alle imprese italiane che fanno mobili, abbigliamento, anche nel settore alimentare, nel settore del lusso vero e proprio, lì c'è la ciccia. Mi dica una cosa, l'India è arrivata alla 12ª posizione, l'Italia è un po' scesa però. L'Italia è un po' scesa, è passata dal 9° posto dell'anno scorso al 10° di quest'anno, in parte questo è legato a un fattore che non è sotto il nostro controllo, perché chi ci ha superati è l'Australia, che è un paese che è fortemente esposto alle economie asiatiche e anche al ciclo delle materie prime, quindi da questo punto di vista non ci sarebbero motivi di particolare interesse, se non per il fatto che l'Italia è tra i pochi paesi in cui il numero di questi fortunati individui è diminuito del 4-7% secondo questa ricerca. Quanti sono come numero in Italia quelli che hanno più di un milione escluso la prima casa? Stiamo parlando di circa 170.000 persone. 170.000 persone, perfetto. No, perché stavo facendo paragone con quelli che dichiarano più di 200.000 euro lordi, che dichiarano tra i 100 e i 200.000 euro lordi, sono 60.000. Secondo lei, se uno guadagna tra i 100 e i 200.000 euro lordi, può diventare milionario? Risparmia bene, investe bene e con un po' di pazienza, perché ci vuole qualche anno, perché no? No, perché non mi tornavano i due conti, insomma. Da un lato 170.000 o 50.000 italiani che dichiarano più di 200.000 euro lordi l'anno, e dall'altro però lei mi sta raccontando che ci sono 170.000 italiani che, nero a parte, perché poi insomma in questo paese un po' di nero c'è, che hanno più di un milione di euro. Sì, se risparmia bene, se non ha figli o se li ammazza a quel punto, e se sostanzialmente non inciampa in altri elementi. Il secondo aspetto che volevo chiedere con lei, cioè voi avete certificato che nonostante la crisi, il numero dei milionari a livello mondiale e comunque anche nei paesi occidentali è sempre continuato a salire, o sbaglio? Beh, nel 2010-2009 sì, in realtà il numero era diminuito nel 2008. Perché dal 2007 al 2008 eravamo passati da circa 10 milioni a 8 milioni e 6. In realtà il numero era diminuito, quindi la crisi c'è stata anche per questo settore. Quello che però si nota è una notevole capacità di ripresa, perché già nel 2009 il numero era tornato a 10 milioni, e appunto questa maggiore dinamicità di alcune aree, l'Asia ma anche l'America Latina. Dove lì c'è l'effetto Brasile soprattutto? In parte c'è l'effetto Brasile, in realtà quello che è interessante dell'America Latina è la forte concentrazione della ricchezza, che è un po' anomala rispetto ad altre aree. Cioè, storicamente però è un paese che ha grosse differenze sociali, è un'area geografica che ha grosse differenze sociali. e lì notate la maggior concentrazione della ricchezza, mentre in Asia, in Cina e in India c'è questa capacità del governo centrale di creare redistribuzione, oppure anche lì si sta andando verso un modello sudamericano? C'è sicuramente maggiore redistribuzione, soprattutto in Cina, ma in realtà quello che fa la differenza, secondo noi, è il fatto che questo fenomeno di creazione di ricchezza in Cina e in India è relativamente recente e non parte da una situazione storicamente diseguale, certo, come era per esempio in molti paesi dell'America Latina. Dove investono i milionari? Ma quello che abbiamo registrato nel 2010 è una continuazione di quello che si era già visto nel 2009, quindi un interesse sul mercato azionario. Dopo il minimo registrato nel 2008, i milionari hanno ricominciato ad investire sul mercato azionario, quindi parliamo di una crescita di esposizione a questa attività finanziaria che è passata dal 25% al 33% dal 2008 al 2010. Questo a svantaggio, a discapito di due categorie in particolare: la liquidità sicuramente, che è scesa dal 21% al 14%, e in parte anche gli investimenti immobiliari, che soltanto nel 2006 contavano per quasi un quarto del patrimonio, adesso sono scesi al 19%. E poi ci sono quelli che hanno più di 30 milioni, qui l'aumento è stato ancora più forte, il 10% in più, come ve lo spiegate? In parte c'è anche un effetto base, Certo, ho capito. Quando continui a accumulare, poi ci arrivi. Esatto, no? Partendo da più la base di partenza elevata, e più i tassi di crescita tendono a, come dire, a comporsi, un po' come l'interesse composto. Sì, no, è interessante questo aspetto, perché è nella parte più alta, diciamo, che ci sono gli incrementi maggiori, anche se dall'Asia arrivano indicazioni invece, ma lì perché la ricchezza è più recente, di nuovi ingressi newcomers proprio nella parte di 1 milione di euro. Lei è dentro questi, Guglielmetto? Magari. No, non so, magari, a forza di occuparsi di ricchi, ma poi ogni tanto non le viene così. Dorme bene la notte? Vuole, ma assolutamente, vuole la vera confessione, che purtroppo non abbiamo il tempo di occuparci delle nostre cose, siamo troppo impegnati. Ah sì, vabbè. Va bene, la ringrazio, grazie al responsabile degli investimenti per l'Italia di Merrill Lynch, Stefano Guglielmetto. Grazie a lei, arrivederci. E adesso, dopo la borsa, continuiamo a parlare di... Io non amo parlare di ricchi, perché sa già così. E poi parliamo di tassare i redditi più alti, e vediamo come, chiedendo uno sforzo complessivo al paese. Proposta che è arrivata ieri dalla Sonime. Devo una risposta a un ascoltatore che dice: non critichi il binario intelligente. Ma non sto criticando, cioè è che il binario intelligente è chi l'ha costruito il binario, non è che il binario intelligente, sono le bombe intelligenti di una volta. 349-238-6666 per i vostri sms, meteo, poi la borsa e poi Luigi Abete. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per quello che riguarda adesso la borsa, e poi parleremo anche dell'ipotesi di rimodulazione delle tasse. Attenzione, il governo non ha mai parlato di diminuire né di aumentare le tasse, ma di rimodularle, cioè diminuirle in alcuni settori e aumentarle in altri. Vedo che adesso anche alcuni esponenti della Lega, penso al sindaco di Verona Tosi, è d'accordo nel dire tassiamo di più i guadagni da rendita, non le rendite, i guadagni da patrimonio, e meno il guadagno da lavoro. Banalmente lo diciamo da anni in questo programma, ma sembrava tabù toccare i guadagni finanziari qualche anno fa. Poi magari qualcuno ci spiegherà un giorno come mai però 100 miliardi di euro sono stati fatti rientrare col 5% di scudo fiscale, perché col senno di poi si poteva chiedere anche il 10, forse, ma non è questo il momento. Adesso la borsa e poi ipotesi di rimodulazione fiscale. 349-238-6666 per i vostri sms. Meno 0,44% nel finale. Milano un po' peggio di Francoforte, meno 0,10%, di Parigi meno 0,15%. Giornata oggi abbastanza calma, anche perché il governo greco ha ottenuto la fiducia, il nuovo rimpasto greco, e quindi dalla Grecia oggi non sono arrivati elementi di tensione. L'automatica più 3,75%, Enel più 1,40%, Autogrill più 1%, di Assorin mezzo punto percentuale. Chi va male? Di nuovo Fondiere Assai, meno 4,22%, Azimut meno 2,80%, Mediolanum meno 2,5%, Mediaset meno 2,2%, A2A meno 2, Mediobanc meno 1,90, Prismian meno 1,80, come la Popolare di Milano e il Monte dei Paschi in pregilo. L'1,70 lo perde Banca Popolare, meno 1,60 Generali, meno 1,50 Buzzi Unicem, l'1,40 il calo di ST Microelectronics, l'1,12 di Eni, l'1% quello di Saipem, ma anche di Telecom Italia. Euro a quota 1,44,25. Come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, Fondiere Assai, tra l'altro oggi si è già espresso l'antitrust, perché mi sono perso qualcosa forse. Non su, ancora. Ecco, che ancora. Oggi deve esprimersi l'antitrust sull'ingresso di Unicredit dentro Fondiere Assai, che praticamente viene di fatto, non, finisce quasi in mano del gruppo, perché con i debiti caligresti, e lunedì parte l'aumento da 450 milioni. Il mercato è però nervosetto su questo. Sì, è nervoso dopo le ipotesi di stampa, peraltro insomma plausibili, già ipotizzabili nelle scorse settimane, di un aumento a sconto del 30-40%, altrimenti non si vedrebbe perché qualcuno dovrebbe sottoscrivere i titoli di Fondiere Assai, quindi è chiaro che il titolo diciamo tende ad adeguarsi a questi valori che sono decisamente bassi, si arriva ad avvicinare addirittura a quota 4 euro. Ricordiamo che questo è un aumento di capitale molto consistente, 450 milioni di euro, che poi andrà a ricapitalizzare a cascata anche Milano Assicurazioni, che è la principale insomma controllata della Fondiaria Assai. E questo su Fondiaria Assai, Banca Popolare di Milano, perso qualcosa anche oggi, l'1,83% a 1,06 euro, sabato l'aumento di capitale, ripeto, il titolo capitalizza più o meno 680 milioni, chiede un aumento di capitale che vale due volte la capitalizzazione. Ponzellini parla di movimenti, che è il presidente, movimenti strani su titoli e sui giornali, sì, per carità, però il 40% di esposizione verso le banche, verso il mondo immobiliare ce l'ha la Popolare di Milano, mica ce l'abbiamo noi. In assemblea andrà tutto bene, escludo le mie dimissioni dopo l'assemblea. Ciao. Ma sì, insomma, ognuno dice la sua, il mercato dice che oggi i titoli bancari sono puniti, e in particolare sono puniti due titoli: Popolare di Milano meno 1,8%, Banca Monte dei Paschi meno 1,79%, e sono due istituti che devono ancora fare l'aumento di capitale. Per quanto riguarda il particolare della Popolare di Milano, insomma, si vedrà come procederà una ricapitalizzazione che, come giustamente dicevi, è molto consistente e quest'anno non trova paragone nelle dimensioni tra ricapitalizzazione e capitalizzazione di borsa a Piazza Affari. Allora, sì, tra l'altro vedo che, che uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della BPM, ed è il membro indicato da suggestioni, Franco De Benedetti, oggi sul Sole 24 Ore, immagino che molti di voi l'abbiano vista, c'è una lettera aperta in cui dice insomma se non portiamo le deleghe da 3 a 5 io mi dimetto, sento una svolta nel Consiglio di Amministrazione, mi dimetto dal Consiglio di Amministrazione. L'automatica, andiamo sui titoli che hanno guadagnato anche oggi, l'automatica di nuovo sto boom del gioco, e Autogrill più 1%, Ansaldo STS, l'automatica? Sì, l'automatica più 3,7%, il titolo, diciamo, come giustamente dicevi tu, si muove grazie alle ottime indicazioni arrivate dal mercato del gioco di maggio. Va comunque visto l'andamento dell'automatica in una prospettiva più ampia. Da inizio anno, infatti, il titolo era stato protagonista di un rally poderoso, poi a metà maggio sono arrivati i realizzi che fino a pochi giorni fa hanno visto stornare circa il 20% del titolo, poi adesso diciamo la società è partita in modo molto vigoroso in borsa, oggi è la seconda seduta di rialzo molto consistente, più 3,7%. Ancora bene Telecom Italia Media più 10,40% sull'ordinario, però De'Longhi più 6,60, Vita società editoriale più 5,50, PRL più 5,50. Telecom Italia Media e PRL, oggi presentavi palinsesti tra l'altro la 7, no? Sì, su Telecom Italia Media comunque in borsa non si placa la febbre da acquisizione. Due settimane fa il titolo era cresciuto molto, poi c'è stato qualche realizzo, oggi è tornato insomma di moda con questo più 10,4%. Per quanto riguarda invece PRL, c'è questo accordo molto significativo per la distribuzione e la vendita di un farmaco in Francia, un farmaco che potrebbe portare ad avere dei ricavi annuali pari a circa 30-40 milioni di euro in più, e quindi insomma la borsa è molto entusiasta su questa ipotesi. I peggiori in assoluto, e mi riferisco a Philips, meno 8,40%, Banca Carige meno 4,60%, Milano Assicurazioni, tu citavi già prima, attraverso Fondiaria Assai meno 4,50%, e poi appunto Fondiaria Assai che perde il 4,40%. Grazie a Ceo Condria. Noi torniamo sul tema, diciamo, non dei ricchi per favore, ma di come rimodulare la pressione fiscale, perché al di là di quello che deciderà il governo nei prossimi mesi, ieri da Assonime è arrivata, che è l'associazione che unisce le società per capitali, è arrivata una proposta abbastanza articolata. Presidente della Assonime, Luigi Abete, buonasera. Buonasera. Allora, nella prima parte del programma, la giorno, abbiamo parlato di questo rapporto di Merrill Lynch sui ricchi al mondo, e continuano a crescere. In Asia soprattutto, l'Asia ha superato come milionari in dollari l'Europa, però anche da noi le cose non vanno male. Dopo il traffico, le chiedo un minuto di pazienza, vorrei capire invece come si articola la proposta che avete annunciato ieri nel corso della vostra assemblea annuale, perché ho visto che c'è una rimodulazione in cui si andrebbe a pagare meno sul lavoro come pressione fiscale e sulle imprese, un po' di più sull'IVA e un piccolo accenno al così chiamiamola patrimoniale, poi lei mi chiarirà il termine esatto. Un minuto di pazienza e ce lo spiega. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Presidente Abete, come si articola la vostra proposta? La nostra proposta è molto semplice, tutti sono d'accordo che bisogna ridurre le tasse sul lavoro e sulle imprese, ma nessuno ha il coraggio di affrontare il problema di quali sono le fonti che possono sostituire questa riduzione di tasse, visto che le due fonti, chiamiamole ottimali, che sarebbero la riduzione della spesa pubblica e l'evasione, non possono in questo momento essere utilizzate per questo obiettivo. La spesa pubblica, che dobbiamo ridurla per entrare nei parametri dell'Europa, e quindi non può essere utilizzata per ridurre le tasse. L'evasione non è misurabile, e stando in un momento di economia e di finanza internazionale difficile, non si possono fare modifiche fiscali senza avere certezza di quali sono le fonti di sostituzioni della tassazione che viene eventualmente ridotta da alcune categorie. Quindi, tolte queste due fonti, che sarebbero le ottimali ovviamente in via generale, ma che nei prossimi anni non potranno essere utilizzate a questo scopo, anche se noi speriamo che la spesa pubblica si riduca e che l'evasione ovviamente venga combattuta e si riduca ancora di più, come facciamo a ridurre le tasse ai lavoratori e alle imprese? A nostro avviso questa operazione è fattibile con tre interventi. Uno, aumentare un po' le imposte indirette, l'IVA, portandolo allo stesso livello europeo. Noi siamo il paese che paga più imposte dirette, quindi più IRPEF e più IRES, ma meno IVA. Aumentando un po' l'IVA e quindi arrivando al livello europeo, noi possiamo usare queste risorse per ridurre le tasse per le persone fisiche, poiché l'IVA potrebbe produrre un costo di alcuni beni maggiori. Noi pensiamo che i soldi che andiamo a recuperare dall'IVA devono andare tutti ai lavoratori a basso reddito e alle famiglie non abbienti, a quelli che hanno la pensione troppo bassa, ai disoccupati, ai giovani che da tanto tempo usano lavoro, perché se noi il maggiore introito dell'IVA lo spalmiamo su tutti, ovviamente certo, le categorie deboli avranno un problema. Se invece concentriamo quelle risorse tutte sulle categorie deboli, noi abbiamo una situazione che è compatibile. Secondo tipo di intervento che vogliamo fare è quello di ridurre l'IRES, portandolo al 20%, così come dovrebbe essere portata al 20% l'imposta sulla sugli affitti, cioè tutti i frutti del capitale dovrebbero essere tassati al 20% indipendentemente dal lavoro, diciamo, che produce quel frutto, è chiaro? Mm. In questo senso noi pensiamo che questa operazione possa essere finanziata con una minima imposta ordinaria sul patrimonio che abbiamo chiamato contributo per la trasparenza e la crescita. Negli altri paesi, in Stati Uniti, si paga il 2% di patrimoniale sulle case, in Svizzera si paga il 7 per mille sulle attività patrimoniali. Parlo di due paesi che sono due paesi in cui normalmente le tasse sono moderne, non so se è l'idea. Certo. Noi proponiamo che sul patrimonio che ciascuno di noi ha si paghi ogni anno l'1 per mille. L'1 per mille vuol dire che se uno ha 1 milione di patrimonio paga 1.000 euro. Se uno ha 50 milioni di patrimonio paga 50.000 euro, quindi sono cifre minime che però da un lato concorrono a ridurre le tasse sulle imprese e quindi come tale ci fanno ottenere quel risultato di equilibrio della tassazione sui redditi del capitale, dall'altro mettono in trasparenza il patrimonio dei cittadini italiani. Oggi qual è il problema? Che noi abbiamo grande trasparenza dei nostri redditi, ma abbiamo tanta opacità sui patrimoni, d'accordissimo. Allora, il problema oggi è che noi dobbiamo, se diamo trasparenza ai patrimoni, a parte l'effetto minimo di tipo economico, evitiamo grandemente i rischi di evasione, i rischi di lavoro nero, perché è evidente che se uno non guadagna ha difficoltà a giustificare il fatto che ogni anno si compri una casa nuova o compri delle azioni, non so se rende l'idea. E quindi come tale la trasparenza del patrimonio è la vera garanzia che si paghino i redditi sul lavoro di ciascuno di noi. E quindi questa è la terza operazione che pensiamo di fare: meno IRPEF, più IVA, che però va tutta ai ceti meno abbienti, omogeneizzazione del reddito del capitale al 20%, indipendentemente se si tratta di interessi, di obbligazioni, di affitti o di imprese, e piccolo contributo, l'uno per mille, sul patrimonio di ciascuno di noi, persona fisica, che ci consenta di diventare cittadini moderni. Noi, lei, io, se abbiamo dei beni immobili, delle azioni, dei titoli, dei depositi, sono noti allo Stato, non è che oggi non sono noti, perché oggi con i sistemi informatici lo Stato se vuole sa tutto, solo che poiché molte di queste situazioni non sono evidenziate in modo unitario, tutti quelli che fanno i furbi e quindi non pagano le tasse sui redditi possono ampliare il loro patrimonio senza che nessuno gli metta l'attenzione. E questo risponde anche ad alcune obiezioni che dicono: beh, attenzione con l'evasione, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666, con l'evasione che c'è in Italia si rischia di far pagare più la fascia. No, è esattamente il contrario, perché l'evasione che c'è in Italia vuol dire che è gente che lavora o che fa impresa in nero, no? Cioè, almeno. Io ho capito benissimo la ragione. Si dice: se obblighiamo i patrimoni anche per una tassazione marginalissima come l'uno per mille a emergere. Io devo fare una domanda, ho 3 minuti ancora, Bete, però c'è una cosa che proprio mi titilla da giorni su questo, e poi la chiederò anche a Gamberale, che sarà nostro ospite nella seconda ora. Lei è stato presidente della Confindustria, se non ricordo male, nel 92. 92-96. 92-96, esatto. Domanda secchissima. Quello fu l'anno in cui la lira uscì dallo SME, ci furono poi 3 manovre 2 anni l'anno dopo. Sì. È peggio la situazione, secondo lei, adesso o era peggio la situazione allora? Abbiamo un minuto. Abbiamo una situazione molto complessa anche adesso. Allora avevamo come punto di debolezza la moneta, che oggi, con tutte le difficoltà, comunque non è il punto di debolezza, perché l'euro comunque rimane una moneta pesante, una moneta, diciamo, significativa. Oggi abbiamo una situazione di bassa crescita e quindi il problema di rischio è importante, la causa è diversa ed è il motivo per cui io penso che dobbiamo fare riforma fiscale, riforma della spesa pubblica subito, perché se le facciamo adesso evitiamo rischi, altrimenti potremmo trovarci in un giorno, in un anno che noi non sappiamo, a dover inseguire un problema che improvvisamente ci è scoppiato tra le mani. Mi dica solo, meglio adesso o 92? Guardi, io penso che oggi stiamo meglio del 92. Oh. Però certamente... non è che vuol dire che stiamo bene, stiamo meglio del 92. No, no, stiamo meglio, però non è detto che dopo domani, cioè fra due anni, fra tre anni, potremmo stare nella stessa situazione di oggi. Il nostro problema oggi non è a brevissimo, è a due o tre anni, è chiaro il ragionamento? Quindi, no, chiarissimo. Se noi riprendiamo a crescere, noi siamo costretti ad avere un problema di finanza e di spesa pubblica che diventa molto molto pesante. Grazie, grazie al presidente della Sanema Luigi Abete. C'è il GR adesso, poi parliamo degli investimenti dei privati nelle infrastrutture con Vito Gamberale. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora, dopo aver ascoltato da chi l'ha proposto, ossia il presidente della Sonima Luigi Abete, la proposta di rimodulare il fisco, attenzione, vedo molti messaggi e non possiamo tornare sul tema. Da come l'ho capita io, Abete ha detto la situazione è migliore adesso del 92, però attenzione, se non si interviene adesso, fra due o tre anni tocca fare interventi ancora più drastici e draconiani, e quindi meglio l'un per mille sul patrimonio e aumentare l'IVA adesso, dando tutto il recupero di IVA ai ceti meno abbienti, che non intervenire fra due o tre anni in una situazione peggiore in cui tocca fare appunto tagli con l'accetta. Visto che questo è uscito ieri, è uscita anche un'altra indicazione, lo ricorderete, il presidente dell'Antitrust Antonio Catricalà ha denunciato i ritardi in tema di liberalizzazioni e ha indicato alcuni settori chiave, tra cui per sbloccare l'immobilismo del paese, le ferrovie, le gestioni autostradali e aeroportuali, la governance bancaria, la rete del gas. E allora parliamo di apertura dei settori protetti e anche del ruolo dei privati nel garantire gli investimenti infrastrutturali che lo Stato, visti i chiari di luna sui conti pubblici, non riesce a fare. Dicevamo quindi le accuse dell'antitrust ieri, l'ultima relazione di Antonio Catricalà, ma anche il tentativo che avviene da più parti di ragionare dal mondo privato verso il pubblico su cosa si possa fare per far uscire questo paese dalle secche, magari anche con capitali non necessariamente, non strettamente pubblici, visto che insomma con le preoccupazioni sui conti di investimenti pubblici se ne vedranno pochi, pochini. Due fronti quindi, ne parliamo con chi in questo momento gestisce come amministratore delegato un fondo di private equity in sostanza, ossia di capitali prevalentemente privati, anche se il 14% è della Cassa Depositi e Prestiti, che ha come missione quello di investire proprio sulle reti infrastrutturali, sulle infrastrutture anche in senso lato. Il fondo si chiama F2I, che sarebbe l'acronimo di Fondi Italiani per le Infrastrutture. L'amministratore delegato è Vito Gamberale, ingegnere, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Barisoni. Allora, lei viene da una lunghissima esperienza di quelli che adesso ne vengono anche recuperati, una volta si chiamavano boiardi di Stato, adesso sono stati molto rivalutati i manager delle aziende pubbliche negli ultimi anni. Lei è stato alla guida di team, tra l'altro lo ricordo, fu il creatore delle carte prepagate, quello che crearono il successo poi della team a livello europeo, poi ha lavorato anche in Autostrade per l'Italia e adesso appunto è amministratore delegato di F2I. Voi avete lo scorso 6 giugno acquistato assieme al fondo AXA Private Equity tutta la rete italiana di distribuzione del gas che apparteneva a Gas de France Suez, l'avete pagato appunto 770 milioni. In questo modo, avendo voi comprato già la rete gas di Enel e lo scorso aprile la rete italiana di E.ON, gestite il 17%, cioè quasi un quinto di tutta la rete gas italiana, siete secondi solo a Leni, che è appunto Snam Rete Gas. Prima domanda: questo vuol dire che la concorrenza è possibile in Italia, oppure ha ragione Catricalà nel dire che le reti gas e altre forme di reti, lui ha parlato anche di reti ferroviarie, non solo, devono essere maggiormente messe in concorrenza per un vantaggio non per voi ma per noi, per chi le utilizza queste reti, per i clienti? Allora, prima di tutto rispondo all'acquisizione che abbiamo fatto. Certo, abbiamo acquisito Italcogim, che si somma ad E.ON e che si somma alla prima operazione che avevamo fatto Enel Rete Gas. Con queste tre acquisizioni abbiamo costituito un importante operatore indipendente nella distribuzione del gas. Indipendente perché noi possediamo solo la rete di distribuzione, non vendiamo gas. E come ha ricordato lei, serviamo il 17% dei clienti, eroghiamo attraverso le nostre tubazioni, passa il 18% dei volumi, però la nostra rete è il 23% della lunghezza globale, quindi quasi un quarto. È un'operazione che ha creato un operatore indipendente, e nella distribuzione del gas operatore indipendente significa assicurare meglio agli utenti la manutenzione della rete, la trasparenza nella misura, perché i contatori sono sulle reti che noi gestiamo, e anche assecondare lo sviluppo. Venendo al problema della concorrenza, io penso che nella distribuzione del gas dobbiamo dividere la parte del trasporto nazionale e regionale, quindi la grande dorsale, che non può che essere una e che è giusto che ce l'abbia l'ENI e che ce l'abbia in monopolio, perché non può esistere la concorrenza sulla dorsale nazionale del gas. Altro è invece la rete di distribuzione, perché la rete di distribuzione sono le reti che capillarmente portano dalla dorsale ai comuni. Perché in effetti l'erogazione del gas avviene presso nelle utenze domestiche, nelle utenze industriali, e quindi sono più gli operatori che vendono gas a queste utenze. Probabilmente, se volessimo rendere veramente libera la concorrenza e quindi questi operatori misurarsi sul prezzo del gas che offrono e sulla qualità del loro servizio, probabilmente pensare di sviluppare ancora di più l'indipendenza dei distributori capillari potrebbe essere senz'altro meglio per la concorrenza. Quindi io vedo la concorrenza non nella grande rete di trasporto nazionale e regionale, quindi nella orta principale, ma la vedo nelle arterie tentacolari nel corpo del paese. Cioè quello che in telecomunicazione si sarebbe chiamato l'ultimo miglio. Bravissimo. Ecco, bravissimo. Ma mi dica una cosa però, c'è o non c'è concorrenza in questo momento nella distribuzione ai clienti? Ho capito cosa dice lei, la parte infrastrutturale, la grande rete che trasporta il gas, quella la lasciamo a Leni, ma a noi il vantaggio viene se possiamo avere diversi operatori tra cui scegliere, magari uno ci offre, come doveva essere all'inizio, la telefonia assieme, la linea telefonica assieme al gas, oppure ci offre la bolletta elettrica assieme al gas, o ci offre qualche altro servizio, cioè diciamo, si mettono in concorrenza. Forse la metafora delle telecomunicazioni è la più che lei conosce giusta. Bene. La metafora delle telecomunicazioni è la più giusta. Perché la rete di telecomunicazioni, che è sempre quella che raggiunge le case, ha permesso poi agli altri operatori di innestarsi l'open access e quindi poi di offrire servizi in concorrenza. In questo caso io penso che il cliente potrebbe meglio percepire la concorrenza sul gas qualora la distribuzione, che ripeto è solo la parte terminale, certo. della rete, la distribuzione fosse ancora più accentrata in un unico indipendente, no? Come Eterna, perché allora di sicuro bisognerebbe e si dovrebbero confrontare i singoli operatori che vendono gas, si dovrebbero confrontare sul prezzo, sulla sicurezza, sul potere calorifico e su quant'altro, no? Quindi, secondo lei, in questo momento concorrenza nel servizio gas agli utenti c'è o non c'è? C'è e potrebbe esserci ancora meglio. Quindi c'è ma non è sufficiente? C'è, non possiamo ignorare che c'è, perché insomma in Italia, se uno vede, ci staranno perlomeno 10 importanti operatori che vendono gas, perlomeno 10. Veramente gli operatori sono 280, perché poi in Italia forse cediamo anche in questo, sono 280. Il problema uno si deve chiedere, avendo rete di distribuzione e vendendo gas, se la percezione della concorrenza poi presso il consumatore c'è. Questo è il problema, no? se magari non siamo giunti al momento in cui si possa separare la vendita del gas dalla distribuzione. Del gas stesso. Adesso al traffico, poi ingegner Gamberale, vorrei capire invece il vostro fondo, che cosa può fare anche per il resto delle opere infrastrutturali, ossia i privati in generale, se non possono essere sussidiari o quasi sostituirsi allo Stato in investimenti che lo Stato ha difficoltà a fare. 349-238-6666 per i vostri sms. Ultima parte di Focus Economia. Dunque, ingegnere Gamberale, vorrei utilizzarla, visto il fondo che lei guida, e anche vista la sua esperienza di manager di Stato, per fare questo ragionamento. Insomma, ce lo spiegava anche prima Luigi Abete, non ci sono soldi, e questo abbiamo capito un po' tutti, bisognerà rimodulare la pressione fiscale, ma insomma sappiamo tutti che uno degli elementi per far crescere i consumi interni è anche attivare opere infrastrutturali. Investimenti in infrastrutture generano occupazione, quindi generano anche consumi. Ecco, visto che però soldi ce ne sono pochi nel bilancio statale, secondo lei i privati possono avere un ruolo sussidiario a quello dello Stato? Ma non solo possono, ma devono, e sono gli unici strumenti. Io da tempo sto dicendo che F2I è nata per assemblare e dare certezze di gestione alle infrastrutture esistenti. Adesso si può assolutamente creare, sulla positiva esperienza di F2I, si può creare un fondo infrastrutture greenfield, che significa per finanziare le nuove opere, per supportare le nuove opere. Un fondo greenfield di 3 miliardi di euro potrebbe senz'altro farsi carico di realizzare nel Paese investimenti come minimo per 15 miliardi. Quindi la possibilità c'è, ma c'è la necessità, perché mentre prima, come ha detto lei, le infrastrutture le faceva o lo Stato, se erano di valenza nazionale, o le istituzioni territoriali, se di valenza locale, adesso nessuno di questi ha soldi, sono tutti indebitati e non possono più farlo, ma questo accade in tutto il mondo. E quindi sarebbe giusto, indispensabile, fare un fondo greenfield il più presto possibile. Questo come finanza. C'è poi da risolvere il problema autorizzativo, perché in Italia si è diffusa la cultura comunista del non far fare le infrastrutture, e bisogna cambiare radicalmente cultura, e bisogna creare le possibilità per le autorizzazioni chiare, certe e cantierabili. Ecco, mi scusi, visto che ne abbiamo parlato prima anche con il presidente del BNL Luigi Abete, della sua proposta di tassazione che ci ha illustrato, però insomma anche per lei la stessa domanda sul paragone col 92. Allora, lei nel 92 era già un manager importantissimo di un'azienda partecipata appunto dalla Stetta, a quel punto, a quel tempo era, se non ricordo male, la holding. La situazione secondo lei è migliore o peggiore? Ma la situazione è senz'altro peggiore. Ah, bene. La situazione è senz'altro peggiore, perché di sicuro i processi autorizzativi erano complessi allora e sono tuttora complessi, perché delle strutture molto, molto articolate, conferenze di servizi, che significa mettere insieme tutti coloro che nel territorio possono avere voce in capitolo nel far fare un'opera, ma tutte significa dal comune a quello che si interessa, dai passeri, degli uccelli, oppure della microfauna locale, quindi c'è anche del pittoresco in questo. Quindi lei mi sta dicendo che il processo in qualche modo, in questo caso federale, cioè di dare maggiore potere io e forza penso, alle autonomie. Io non penso questo, io penso che nelle infrastrutture a valenza nazionale i poteri debbono essere centralizzati, perché ripartire una grande arteria che attraversa più regioni non può raccogliere i pareri da diverse regioni. Quindi ci sono infrastrutture di valenza strategica nazionale che se ne deve occupare lo Stato centrale, infrastrutture locali, puntuali o valenza veramente locale che se ne deve occupare il territorio, ma i processi autorizzativi debbono essere semplificati, debbono avere tempi certi e le infrastrutture debbono avere costi certi, perché in Italia le infrastrutture sono sovraccaricate da sovraccosti per accontentare le richieste di queste. Certo, l'abbiamo visto con l'alta velocità sulla Milano-Torino. Ecco, ma la situazione peggiore del 92 dal punto di vista delle opere, questo l'ho capito, ma anche in generale dei conti pubblici dello Stato, cioè della gestione e delle risorse? Perché nel 92 l'Italia uscì dalla lira, uscì dallo SME, ci furono tre manovre monstre, Amato, Gini Ciampi. Io non sono un economista. No, però era un grande manager già allora, Gamberale. Sì, non mi voglio assumere ruoli che non sono miei. Di sicuro l'euro ci ha dato più stabilità, però ci ha imposto più rigore. E quindi il rigore va perseguito. Allora il paese ha un grande debito ed ha bisogno di svilupparsi. E sono quasi due cose in contraddizione, perché un'azienda con debiti difficilmente ha le risorse, non può avere le risorse per svilupparsi. Quindi bisogna trovare la maniera per diminuire il debito e per creare la possibilità di svilupparsi. Io penso che una tassa sulla ricchezza, un'importante tassazione sulla ricchezza, non sarebbe male in questo momento, perché darebbe un colpo significativo all'arretramento del debito e creerebbe, solo con il risparmio degli interessi, una spinta da poter dare all'economia, sia sotto forma di risparmio fiscale che sotto forma di investimenti. Per quanto riguarda le infrastrutture, che sono sempre un volano per lo sviluppo, io penso che un importante fondo infrastrutture Greenfield e la semplificazione chiara dei processi autorizzativi possano essere una vera importante spinta al rilancio dell'economia. Ecco, mi tolgo un'ultima curiosità, ingegner Gamberale. Nel 92, poi nel 94, quando iniziarono le grandi privatizzazioni, c'era questo mantra che diceva, insomma, tutto ciò che è privato è bello, funziona meglio, i manager di Stato non sono capaci, non creano valore. Poi abbiamo visto che in realtà le cose non stavano esattamente così, abbiamo avuto manager privati e gruppi privati che hanno distrutto valore, penso alle telecomunicazioni, ma non solo. Ricordo che in quegli anni avevamo la TIM al numero uno in Europa, primo gruppo di telefonia mobile in Europa. Nel mondo, ha ragione. Sì. Nel mondo, numero uno nel mondo era la TIM, numero tre era la Omnitel. Adesso siamo. Lasciamo stare, dai. Detto questo, nel frattempo poi anche certe posizioni in cui il privato fosse solo bello e solo bravo sono state riviste. Abbiamo visto disastri creati anche dal privato, abbiamo visto manager distruggere valore, abbiamo visto anche gruppi finanziari e bancari creare, diciamo, parte di questa crisi finanziaria. Le chiedo, dopo la sua esperienza sia nel pubblico per decenni, adesso anche nel privato, dov'è meglio? Ma sai, io sono stato sempre laico nella mia vita e quindi non mi sono mai iscritto a delle religioni monoteiste e vissute con radicalismo. Dico questo per dire che le privatizzazioni, non è vero che siano stato un disastro. No, non l'ho mai detto. Perché le privatizzazioni delle aziende manifatturiere in Italia sono state un grande successo. Per lo Stato che ha venduto e per i privati che le hanno prese e per lo sviluppo che hanno avuto. Sono le privatizzazioni dei servizi che hanno avuto diversi andamenti. Quando sono state fatte con la formula della public company, tipo la quotazione in borsa di Eni ed Enel, sono stati grandissimi successi per lo Stato come venditore e per le aziende che si sono sviluppate a livello mondiale. Quando sono state fatte in chiave familistica, con i servizi, allora queste famiglie, ottime famiglie in campo manifatturiero, si sono dimostrate di ottica più finanziaria che industriale nel campo dei servizi e delle infrastrutture. Ma questo è a riferimento alla privatizzazione di Telecom, dove il nocciolo duro fu quello degli Agnelli, no? Ma diciamo, se si poteva chiamare nocciolo duro. Vabbè, quel nocciolino, che era piccolino. Un seme di sabbia, infatti poi si è sgretolato, no? Ma diciamo che non si può dare la colpa al governo, perché il governo puntò sulla presunta migliore imprenditoria del paese, fu quella che deluse, ma a monte che fu creata una campagna per dovere privatizzare per forza e rapidamente quella che in quel momento era la più importante, la più quotata azienda di telecomunicazioni al mondo. E sa, l'Italia soffre di questa mania, in quel periodo eravamo boiardi, l'Italia con le culture che c'ha è abituata a creare, prima a uccidere persone e cose e poi a rimpiangere quelle persone e quelle cose. Grazie a lei, grazie all'ingegner Vito Gamberale, in questo momento amministratore delegato di F2I, quindi Fondi Italiani per le Infrastrutture. A lei e ai suoi ascoltatori. E siamo veramente in conclusione. Potremmo farci una puntata intera sul tema delle privatizzazioni. Comunque, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul il ragionamento fatto da Luigi Abete in quanto presidente di Assonime. Lo ripeto, l'aumento delle aliquote IVA porterebbe 40 miliardi, una imposizione sul patrimonio dell'1 per 1000 porterebbe circa 9 miliardi e portare al 20% tutta la tassazione sui redditi finanziari, quindi fare scendere dal 23 al 20 quella sui depositi e portare dal 12,5 al 20 quella sui guadagni da capitale porterebbe un altro miliardo. Ci sono 50 miliardi, calcola l'Assonime, che secondo il modello presentato dovrebbero andare tutti sui redditi meno sui redditi più bassi, sulle fasce meno abbienti. È veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Per ora da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.